alta quota, torna in alta quota nella stagione che tra breve ci aspetterà, cioè l'inverno. È vero che adesso c'è ancora l'autunno di mezzo, ma sarà anche questo un autunno per me movimentato, però l'obiettivo clou principale sarà il Karakorum in invernale. Il Karakorum è insieme all'Himalaya la grande dorsale montuosa dell'Asia, e in Karakorum ci sono 5 montagne che superano gli 8000 metri. La più famosa è il K2, sì, la famosa montagna, sì, degli italiani. Però il K2 non è l'unico, vicino al K2, a un'ora a piedi, c'è il campo base del Broad Peak, a un'altra giornata di cammino c'è il campo base di altri 2 8000, il Gashenbrum 2 e il Gashenbrum 1. Ecco, queste due montagne, il Gashenbrum 2 e il Gashenbrum 1, saranno il mio obiettivo. Per la precisione è solo una, sì, delle due, il Gashenbrum 2. E questo è l'obiettivo che ho, andare a tentare il Gashenbrum 2 in inverno. E il prossimo, che è aggiunta così, in inverno sembra poco, ma insomma, fare queste montagne in inverno. Ma attenzione, perché Simone Moro tra poco parte anche in quota, ma non con lo zaino e con gli scarponi, ma come? In elicottero? Ma che se ti sei ammattito? Non perché non sono più capace di camminare, perché altrimenti non andrei fra 2 mesi a tentare la prima invernale della storia del Gashenbrum 2, ma perché è un progetto che tra l'altro comunicai ancora dai microfoni di Radio 24 un anno e mezzo fa, ho preso l'abilitazione, il brevetto di pilota commerciale di elicottero, e da allora non sono stato con le mani in mano. Oltre agli allenamenti quotidiani alpinistici, ho fatto anche quelli con il mezzo rotore, cioè con l'elicottero, ho preso diverse specializzazioni su alcune macchine, io chiamo macchine alcuni modelli di elicotteri che sono specifici per il lavoro in montagna, e voglio andare in Nepal a pilotare elicotteri, e per la fattispecie a fare il pilota del soccorso. Diciamo che un soccorso vero e proprio come lo diamo noi, il soccorso alpino, sì, 118, non esiste in Nepal. Esistono solo pochi elicotteri utilizzati talvolta anche per i soccorsi in montagna, o per qualcuno che vive in montagna, delle popolazioni nepalesi, sì, che vivono su nelle parti alte delle montagne. Perché poi, Simone, c'è sempre anche questo brutto vizio, a volte, purtroppo io dico vizio, di chi va in montagna, di mettersi nei guai, no? Sì, c'è chi adesso, sapendo che ci sono gli elicotteri anche là, magari si fa un po' meno scrupolo a dire: Caperi, sto male, mi hanno detto che devo scendere di quota, se no muoio di edema cerebrale. Ah, c'è anche l'elicottero, chiamiamo l'elicottero. Comodo. Diciamo che stanno esportando un atteggiamento che c'è anche qui da noi, diciamo non con quella frequenza. Qui da noi sta diventando veramente preoccupante, per il fatto che non si paga il 118, perché lo pagano i contribuenti, o perlomeno adesso, grazie a Dio, è cambiata anche la regola, e quando uno viene visto, insomma, è palese che si è cacciato nei guai volontariamente, adesso giustamente gli si manda anche il conto, certo, a casa, perché c'è troppa gente che si attacca al telefonino, fa 118, sono stanco, mi sono fatto male, invece si vede venitemi a prendere, come se fosse in autostrada, in autostrada, esatto, in panne, esatto, sì, esatto, esatto, grazie, esatto, allora, esatto. Grazie Simone Moro per essere stato con noi, ovviamente da Oslo, per le prossime avventure, grazie davvero. Io prima di andare al sondaggio devo fare una precisazione, perché forse avete sentito anche nel GR che l'ha annunciata la presenza di Raffaele Lombardo, presidente della Regione Sicilia, al quale auguro davvero maggiore fortuna politica della serietà con la quale prende gli appuntamenti telefonici in diretta su Radio 24. Cari auguri, presidente Raffaele Lombardo. Allora, noi ci fermiamo per l'appuntamento con il meteo, e poi abbiamo il sondaggio, parliamo di pena di morte oggi, perché il presidente iraniano Ahmadinejad, anche con una voluta provocazione, ha detto: anche voi nell'Occidente, anche voi negli Stati Uniti giustiziate le donne, però fate le mobilitazioni di tutto il mondo per Sakineh, e invece qui non se ne parla. È un'accusa giusta, è un paragone giusto, è un paragone improprio quello che ha fatto Ahmadinejad? C'è una pena di morte democratica, come chiedo io provocatoriamente? Radio24.it per votare, oppure se volete intervenire in diretta 800 24 00 24 tra poco. 24 mattino. Le 8:33 minuti, eccoci qua in diretta a parlare del nostro sondaggio oggi di pena di morte, perché perché il presidente iraniano Ahmadinejad ha lanciato una bella provocazione alle Nazioni Unite. Dice: ma come? Il mondo occidentale si mobilita per Sakineh, condanna a morte peraltro, dice, sospesa, e poi voi negli Stati Uniti, per esempio, questa notte in Virginia, nel carcere di Jarrett in Virginia, verrà uccisa, condannata a morte una donna, non capita da 98 anni in Virginia, tra l'altro minorata mentale secondo alcune testimonianze, e non fate niente? Non ci sono mobilitazioni? Ecco la nostra provocazione di oggi. Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? L'Iran agli Stati Uniti dice: anche voi avete la pena di morte, ma nessuno ne parla. L'Occidente non si mobilita come per l'Iran. È un'accusa secondo voi giusta? È un paragone giusto? È un'accusa impropria? Oggi Pierluigi Battista in prima pagina sulla stampa, sul Corriere: la pena di morte mai, ma l'America non è l'Iran. Pierluigi Battista dice: la pena di morte è orribile ovunque, ma appare ridicolmente pretestuoso l'accostamento che Ahmadinejad suggerisce tra il sistema iraniano e quello americano, dove in Iran la forca, la lapidazione sono due elementi essenziali della scena politica. I corpi degli impiccati che penzolano nel vuoto sono usati come immagini di terrore che dovrebbero convincere gli iraniani a non ribellarsi al regime. C'è una frontiera morale e politica tra l'autoritarismo iraniano e la democrazia americana, che non può essere sbriciolata da analogie usate come arma di ricatto morale per far cadere l'Occidente democratico in contraddizione con se stesso e i principi che professa. Io faccio allora questa domanda provocatoria: esiste allora una pena di morte più democratica delle altre? Ne parliamo con Massimo Fini, giornalista, scrittore, intellettuale. Massimo, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Voglio salutare anche Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty International Italia. Buongiorno Nuri. Buongiorno a voi. Eccoci. Fini, lei tra l'altro ha fatto una provocazione un paio di giorni fa, ha scritto sul Fatto Quotidiano di Sakineh. Intanto le chiedo: la pena di morte è un atto di per sé orribile per lei, sempre e comunque, oppure no? Ma nella mia cultura, nel mio mondo, cioè in Italia, io se ci volessero introdurre la pena di morte mi batterei contro. Ma non credo che noi si abbia il diritto di intervenire su popoli che hanno culture diverse dalle nostre. E soprattutto nel caso, per esempio, di Sakineh, non c'era solo la battaglia che io ritenevo logica e giusta contro la possibile lapidazione, perché ma è che si leggeva Sakineh subito libera. Ora, secondo l'accusa dei tribunali iraniani, questa è una donna che ha ucciso il proprio marito attraverso l'amante. Ora, subito libera cosa vuol dire? Cioè, vuol dire non è accettabile che siano i tribunali popolari dell'Occidente a decidere di queste cose. Però l'idea che mi interessa questo principio, perché qualcuno dice ci sono dei diritti umani universalmente accettati e che dovrebbero essere accettati da tutti, invece lei dice nelle culture varie non si può mettere il becco, insomma, se... No, vede, quando si comincia con i diritti universali si entra in un totalitarismo invece che in quello che sta al di fuori, a mio avviso, del nostro pensiero originario liberale. In nome dei diritti umani abbiamo visto in questi anni fare stragi inenarrabili, l'abbiamo visto in Iraq, lo vediamo tutti i giorni in Afghanistan. Tutto ciò che è universale è totalitario, non esiste nulla di universale. Tutto è relativo. Tutto è relativo. In base... Beh, interessante come punto di partenza. Tra l'altro il sondaggio dei nostri ascoltatori, il 65% per ora dicono sì, è un'accusa giusta, cioè è un paragone proprio, non improprio, quello che ha fatto Ahmadinejad. Vorrei da Riccardo Nuri, non so, prima della vicenda Ahmadinejad, insomma, di cosa ne pensa di quello che ha detto Fini, cioè la cultura della pena di morte da noi magari non è accettabile, ma non possiamo arrogarci il diritto di andare a sindacare le culture altrui. Io credo che la storia di Amnesty International sia una storia di una ingerenza nelle violazioni dei diritti umani in tanti paesi, senza differenza in nome dei principi che la comunità internazionale si è data, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, trattati, convenzioni internazionali, che hanno stabilito dei principi chiari, che alcune cose non si possono fare, voglio dire, non si può torturare, non si possono commettere atti come le mutilazioni genitali femminili, che sono cose orribili, non si possono arruolare bambini negli eserciti, eccetera, eccetera. Ora, se non c'è un divieto assoluto di pena di morte, è anche vero che da 3 anni le Nazioni Unite adottano risoluzioni a stragrande maggioranza che sottolineano come la pena di morte sia una questione di interesse internazionale. Questo vale per l'Iran e vale per gli Stati Uniti. Ora, è chiaro che quello che sostiene Amnesty International è una ingerenza in nome dei diritti umani che si fa a colpi di penna, non si fa con le bombe, si fa mandando appelli tanto al presidente iraniano quanto al governatore della Virginia. Io immagino che il presidente iraniano non passi il tempo a vedere il sito amnesty.it, ma se lo facesse... Ma guardi, neanche, non credo neanche il governatore della Virginia. Questo tema, guardi, lo dico per esperienza anche personale, la vicenda Barnabei nel 2000 è assolutamente ha un posto forse minuscolo nell'agenda di un governatore, se mai ci entra nell'agenda di un governatore. Sì, quando si pone il problema, l'ultimo giorno dice no, alla grazia e via, insomma si va avanti. Però è interessante il ricordo di Derek Barnabei, perché quello era un periodo, e poi voglio dire che molto spesso poi i governatori leggono gli appelli ma prendono decisioni perché sono incalzati da persone di ogni parte del mondo, ma in quel periodo di Rocco Derek Barnabei l'accusa era opposta: vi state occupando, vi occupate sempre soltanto degli Stati Uniti, sì, guardate invece che cosa accade in Iran. Beh, quando c'è, diciamo, tutti i riflettori puntati su una cosa che comunque non è un po' scomoda, forse è una cosa della quale non si vuole pubblicizzare moltissimo, comunque l'idea della pena di morte anche negli stati laddove viene applicata. Però Fini ci ha fatto questa provocazione filosofica, anche interessante, Nuri, cioè dire parlare di diritti umani vuol dire entrare nel totalitarismo, non c'è nulla di universalmente da accettare o accettabile. Ma io penso che, insomma, Fini, che saluto, in passato ha preso anche parte iniziative, avrà firmato certamente appelli di Amnesty, e lo si fa non in nome di un totalitarismo, lo si fa insieme a organizzazioni per i diritti umani che sono in Africa, che sono in Asia. Il 10 ottobre è la giornata mondiale contro la pena di morte e la coalizione che la promuove, ne fanno parte organismi africani, asiatici, anche medio orientali, che nei loro paesi si battono per non per un atto di totalitarismo, sì, per un sistema di valori condiviso dalla comunità internazionale che sempre di più mette la pena di morte ai margini. Ma questa è la questione. Fini, non so se è vero, lei ha partecipato, ha firmato appelli di Amnesty sui diritti umani? No, io non ho firmato appelli di Amnesty, ne ho firmato solo una domanda di grazia nei confronti di Renato Valanzasca. Questa è l'unica cosa che ho firmato. La grazia per Renato Valanzasca. No, sì, ma perché c'aveva 35 anni di galera, insomma, mi pareva una cosa avere un senso. Sì, è effettivamente l'uomo che ha fatto più carcere in Italia. Certo, ha anche commesso dei delitti atroci. Ha commesso dei gravissimi delitti, però non solo li ha scontati, ma non ha mai negato la potestà dello Stato di punirlo, cosa che altri non hanno fatto. Però seguendo questa linea, chiedo in maniera, come io ho detto provocatoriamente, come scrive Pierluigi Battista, dicendo: certo, la pena di morte è orribile, certo, ma non si può paragonare la pena di morte applicata negli Stati Uniti alla pena di morte che viene applicata in Iran, dove ci sono le forche che penzolano e le foto. Cioè, cos'è? È più democratica una pena di morte? Uccidere è più democratico con le garanzie processuali del caso? Ma questo è una... A parte che nel pezzetto che lei ha letto Battista fa molta retorica, ma a parte questo fa parte di quella pericolosissima convinzione dell'Occidente di avere una cultura superiore, di avere valori superiori, che con le buone o anche con le cattive, ma non importa, devono essere imposti agli altri paesi. Cioè tutto il mondo dovrebbe omologarsi al modello occidentale, nell'economia, nelle istituzioni, nell'essere tutti democratici, eccetera, eccetera. Questo è il totalitarismo. Non c'è nessunissima ragione per cui gli afghani debbano essere democratici. Hanno una cultura completamente diversa. Faccio il primo esempio, ma importante, che mi viene in mente. Non è affatto vero che E noi pensiamo all'Iran come se fosse, non so, dei baluba arretrati a 2000 anni fa. Non è così. L'Iran è un paese molto corto, civile, e non, in questo caso, non essendoci tra l'altro in gioco ragioni politiche, non vedo perché non ci si debba affidare dei tribunali iraniani o più di quelli italiani, di cui il nostro Presidente del Consiglio va dicendo da 15 anni che i magistrati sono il cancro, la metastasi della democrazia. Dice, però, insomma, la questione forse è anche il sistema giudiziario, che è basato da noi su anche una distinzione dal potere, no, politico, mentre in alcuni stati come l'Iran, sappiamo, se vige, o negli stati dove vige la Sharia, insomma, cioè basata su, sulla legge. La Sharia non è legata al potere politico, la Sharia è appunto, la legge, è però è la legge che si giudica in base a quello, non crede che sia, insomma. Convinzione che la legge religiosa sia peggio. Sia peggio di quella civile. Io personalmente, non sono né religioso, sono onesto pagano, però voglio dire, è una nostra presunzione al solito di avere la cultura superiore, e quando si pensa di avere la cultura superiore si combinano guasti inenarrabili, e lo vediamo negli ultimi 15 anni. Insomma, chi ha scatenato le guerre peggiori negli ultimi 15 anni? L'Occidente. Chi ha i soldati, ma non dico per ragioni difensive o qualcosa, nei posti, nei vari posti del mondo, è l'Occidente, con oltretutto la pretesa di bombardare questa gente per il loro bene. Questo è intollerabile, è la Santa Inquisizione, è il contrario di quello che vorremmo essere. Allora, il 64% per ora dice il paragone di Ahmadinejad è corretto. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora Ahmadinejad, che ci punta l'indice all'Occidente, voi occidentali che vi immobilitate per Sakineh e poi questa notte negli Stati Uniti viene giustiziata una malata di mente in Virginia. Pier Francesco da Venezia, buongiorno. No. Che dice? Ma guardi, interverrei sul discorso così come impostato da Fini, che peraltro seguo sempre sul gazzettino, eccetera, ma perché mi pare di proporzioni troppo alte per parlarne più specificamente. In questa situazione bisognerebbe valorizzare come minimo la differenza abissale di sistemi processuali fra l'America è meglio ancora altri paesi e paesi come l'Iran. Ecco, ma questa è un'obiezione giusta, cioè qualcuno, come dice anche Battista, ma cosa paragoniamo le forche che penzolano da una parte alle garanzie processuali? Presumo in America, in Italia per esempio una persona del genere, in quanto incapace, non sarebbe forse nemmeno stata condannata o comunque condannata con misure. Ma Ahmadinejad, Ahmadinejad, del quale non voglio essere certamente il difensore, ne pone una questione di principio a dire: noi abbiamo la pena di morte e vi siete mobilitati in tutto il mondo, voi avete la pena di morte e allora chiedo a lei, secondo lei quindi è una pena di morte più democratica? Per principio, pena di morte mai. La mobilitazione sulla pena di morte, per esempio la battaglia dei radicali sulla moratoria, sì, è stata fatta va bene, per l'Occidente. Però il processo fatto dall'Iran o dagli amici del nostro Presidente del Consiglio Gheddafi e compagnia non sono non dico paragonabili, ma nemmeno ma allora totalmente... le concludo con la provocazione: per lei la pena di morte negli Stati Uniti almeno avviene democraticamente, cioè nel rispetto di tutte il processo degli Stati il processo. Uniti avviene democraticamente, la scelta di delle forme sanzionatorie è la contesta cosa. Va bene, grazie per Francesco. Grazie, andiamo a Forlì da Claudio. Buongiorno Claudio. Buongiorno, io mi chiamo Claudio Giusti. Sì. Io mi occupo di diritti umani da circa 40 anni e questi ultimi 15 li ho passati occupandomi di pena di morte americana. Intanto che ci siamo, noi stiamo facendo un, scusate, ho un grosso eco. Sì, e vabbè, vada avanti, noi la sentiamo. Noi stiamo organizzando un congresso piccolo congresso a Faenza dove sono in esposizione due bellissime sedie elettriche di ceramica, comunque questo è un altro discorso. Volevo dividere in due parti il mio intervento. Volevo far notare che le Nazioni Unite considerano il rispetto dei diritti umani un obbligo per tutti gli stati. Lo hanno detto in diverse occasioni, soprattutto nella proclamazione di... Vabbè, ma sa quello che le Nazioni Unite obbligano a fare, poi uno è tenuto a farlo, oppure no. A Teheran nel 1968 hanno detto che il rispetto dei diritti umani è un obbligo per i membri della comunità internazionale, a Teheran. E va bene. E su questo penso che non ci debbano essere dubbi. Per quanto riguarda il confronto fra i due sistemi giudiziari e il modo di ammazzare la gente, diciamo che Ahmadinejad non ha tutti i torti, perché della Lewis se ne sta parlando oggi solo perché c'è la tragedia di quella donna iraniana, altrimenti come le altre 40 esecuzioni di quest'anno. Sì, moriva in silenzio, certo. Esatto. Quindi c'ha un pizzico di ragione Ahmadinejad, ma poi dovrebbe guardare in casa sua, dove ammazzano 300 o 400 persone all'anno nella più assoluta segretezza. Noi non ne sappiamo nulla. E insomma, è questo quindi il problema. No, la ringrazio Claudio, voglio andare anche da Elda da Milano, poi torno da Fini e Nuri. Elda. Sì, buongiorno. Allora io volevo dire questo, sicuramente non esistono delle morti più uguali di altre. La morte, il principio della contrarietà alla pena di morte è un principio assolutamente fondamentale, sul quale non si può transigere, ma io ritengo che ci debba essere non la pena di morte, ma sicuramente una pena di morte civile per coloro che commettono dei delitti efferatissimi per i quali attualmente c'è l'ergastolo, la pena di morte, e perché abbiamo la sicurezza della segregazione in strutture in cui è previsto un loro percorso di recupero umano e personale garantito, assistito esattamente come le suore di clausura, ma sì, però stiano lì. No, ma tra l'altro Elda, lei dice questo proprio riferito magari al sistema americano, dove c'è l'ergastolo effettivo, se lo si vuole, no? Effettivo, cioè si passa la vita in carcere, mica all'acqua di rose come in Italia, dove poi dopo si esce dopo 20 anni. Però Massimo Fini, qui l'ascoltatrice dice sulla pena di morte non si transige, l'ascoltatore di prima dice i diritti umani devono essere rispettati da tutti, è stato stabilito dall'ONU a Teheran. Qua ci sono dei che fanno un po', confliggono un po' con quello che lei ci dice, no? Beh, ma chi decide quali sono i diritti umani universali? Quello che è diritto umano universale per lei può non esserlo per me. Beh, l'ONU, cioè l'ONU, se è considerato il consesso delle nazioni mondiali. Mi verrebbe una frase volgare, perché quando serve si richiama l'ONU, quando non serve l'ONU non esiste più. Per esempio gli Stati Uniti hanno fatto una guerra all'Iraq che l'ONU era contraria totalmente, eppure nessuno ha alzato cosa. L'ONU purtroppo è un organismo che sappiamo benissimo è in mano soprattutto agli Stati Uniti d'America in quanto potenza mondiale, quindi mi spiace per l'ONU ma non è credibile. L'ONU non rappresenta anche i paesi arabi, qualcuno dice invece paralizzano i paesi arabi l'ONU. Vabbè, ma insomma, certo, molto democraticamente mi pare che Emma Bonino voleva fare un'ONU dove fossero rappresentati solo i paesi democratici, democraticamente escludendo tutti gli altri. Non si capisce che questo appunto è una forma di totalitarismo. Sono culture che sono diversissime dalle nostre, che hanno concezioni della vita e della morte diverse dai nostri, dei diritti, della famiglia. Ma quindi, siccome sono diverse, vanno universalmente accettate, cioè anche se impongono delle cose per me aberranti come la pena di morte. Questa non è la mia idea. Dico, Levi Strauss, che non era un estremista talebano, era un antropologo e filosofo francese, è quello che è antropologo, quindi che ha visitato tantissime culture, e dice che ogni che non puoi prendere un elemento di una cultura che non ti piace e estrapolarlo, perché ogni cultura è fatta di una serie di pesi, di contrappesi, di compensazioni, è come la lingua, va presa nel suo suo contesto. Oppure decidi che non ti vanno, allora però sei più onesto e dichiari guerra, oppure non ci fai gli affari commerciali come noi facciamo con l'Iran. Mi devo fermare qui. Aggiungere. Sì. Purtroppo io sento male gli ascoltatori. Ecco, vorrei aggiungere il paragone che ha fatto, la provocazione quella che ha fatto Ahmadinejad, è un ragionamento logico a cui bisogna rispondere con argomenti logici. E bisogna anche smettere di dire tutto ciò che dicono gli altri che non ci piacciono sono provocazioni. Va bene, mi devo fermare qui. Grazie a tutti, Antonella Migliaccio in redazione con Peter Bescapè in regia. Diamo la linea a Oscar Giannino. A domani.